Il Sole 24 Ore. Sindacati in piazza a Roma per contestare la riforma previdenziale a sostegno degli esodati. La Camusso chiede le dimissioni del presidente dell'INPS. Crolla di quasi il 7% la produzione industriale a febbraio, il dato peggiore dal 2009, borse negative, spread in rialzo. Fallito il lancio di un missile in Nord Corea, violata una risoluzione dell'ONU, dice Ban Ki-moon. Il calcio scommesse, oggi nuovi interrogatori. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. È in corso a Roma il corteo e la manifestazione di CGIL, CISL, UIL e UGL a sostegno dei lavoratori esodati e contro la riforma della previdenza. Ci colleghiamo in diretta con Piazza dei Santissimi Apostoli. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. E sotto una fitta pioggia si è conclusa poco fa la manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL contro la riforma delle pensioni, in particolare la difesa degli esodati, cioè tutti coloro che non hanno né più stipendio né pensione dopo che la riforma previdenziale ha spostato in avanti la data del ritiro. Sugli esodati, come sappiamo, è in corso un vero e proprio braccio di ferro con il governo. Per quest'ultimo infatti sono solo 65.000, ben di più per i sindacati. Qui si danno cifre sballate, accusa la leader della CGIL Camusso, che chiede di rendere pubblico i numeri, di convocare quanto prima i sindacati, altrimenti proseguirà la mobilitazione. Ma non solo, se il governo confermasse queste cifre non resterà altro, dice Camusso, che chiedere le dimissioni del presidente dell'INPS. Ma sentiamo la sua voce. Quanti mesi bisogna aspettare perché si riconosca che sono persone, non fantasmi? Non ne possiamo più di sentir definire privilegiati quelle persone che hanno lavorato tanti anni e che per la crisi della loro azienda o per i problemi dell'occupazione sono stati costretti a lasciare il lavoro. Non sono persone che hanno deciso di andarsene dal lavoro, sono persone a cui è stato chiesto di andarsene perché le loro aziende non ce la facevano più. E se la ministra continua a dire che le pensioni non sono uno strumento di ammortizzatore sociale, che non sono una strada per risolvere la crisi, ci dica questo governo cosa intende fare per creare lavoro, perché se non si crea lavoro non si possono semplicemente lasciare le persone senza reddito e senza pensione. Fortemente critici anche gli altri due sindacati. Per il leader della CISL Bonanni il comportamento dell'esecutivo non è responsabile né rispettoso, mentre Angeletti della UIL parla di numeri buoni per giocare all'otto. In piazza c'era anche l'Italia dei Valori, che ha attaccato il governo sugli esodati. Ha detto Di Pietro sembra di riascoltare le frottole di Berlusconi. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Adesso rimaniamo però a Roma, visto che i sindacati chiedono risposte al governo. Governo che è riunito da questa mattina nel Consiglio dei Ministri. Linea a Palazzo Chigi, Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Pensioni e caso esodati al centro degli impegni del governo, anche se non all'ordine del giorno, i temi sono in discussione al Consiglio dei Ministri. È di ieri infatti il comunicato del Ministero del Lavoro, che fissava in 65.000 il numero dei lavoratori che in virtù della revisione del sistema previdenziale rischiano di trovarsi senza lavoro e senza pensione. Il dato, si è difesa la Fornero, è frutto di un lavoro scrupoloso. La reazione dei sindacati tuttavia ha spinto il Premier Monti a chiedere ulteriori controlli. Altro capitolo, quello del finanziamento dei partiti, al no del Quirinale, all'inserimento delle nuove misure per la trasparenza nel decreto fiscale si aggiungerebbe anche quello di Palazzo Chigi. Di fatto l'esecutivo spingerebbe a che il provvedimento non venisse allargato ad altri temi. Dal governo si sottolinea comunque la disponibilità a studiare le soluzioni più appropriate solo se ci venisse richiesto. Il Consiglio dei Ministri infine lavora oggi sul decreto che riguarda la protezione civile. Gli oneri connessi alle emergenze verranno coperti integralmente con l'aumento delle accise carburanti. Niente tassa quindi sugli SMS. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Torneremo tra poco a Roma per parlare di politica. Adesso in primo piano ci sono alcuni dati economici preoccupanti. La produzione industriale, prima di tutto, che a febbraio è calata dello 0,7%, ma su base annua del 6,8%. Si tratta della discesa tendenziale più forte da novembre 2009, fa sapere l'Istat. Sempre l'Istat ha confermato le stime sul tasso di inflazione, che a marzo resta stabile al 3,3%, confermata anche la crescita dei prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, che è stata del 4,6%. La benzina è cresciuta tra marzo 2012 e marzo 2011 del 18,6%, mentre il gasolio del 22,5%. E a proposito di numeri, sentiamo come sta andando la borsa e i mercati finanziari in generale. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il rallentamento della Cina, il rialzo degli spread dei paesi europei periferici sono fattori che stanno pesando stamattina sui listini europei, che hanno allargato il rosso a metà seduta, ampliandolo ulteriormente nel corso appunto delle ore successive. Adesso invece vedo di nuovo un leggero miglioramento, però c'è meno 0,9% a Parigi, meno 0,5% a Francoforte, Londra meno 0,40%, Madrid perde 2 punti, Milano meno 1,37% sul FTSE MIB. È uscita peraltro poco fa anche la prima trimestrale americana, attesa per oggi. Stanno cominciando a rassegnare i dati le grandi banche d'affari. JP Morgan, l'utile del trimestre è sceso a 5,4 miliardi di dollari, ma il gruppo riesce a riconoscere una cedola in aumento. A Piazza Affari volano i titoli Finmeccanica e Ansaldo, più 5 più 3% rispettivamente, perché ormai sarebbero alle battute conclusive le indicazioni appunto per la cessione del controllo di Ansaldo STS, Ansaldo Breda appunto ai giapponesi di Hitachi, e dunque i titoli si muovono di conseguenza. Euro su dollaro a 1,3166 per quello che riguarda il citato spread. Stamattina tra Italia e Germania siamo a 370 punti base. Tutto. Grazie Deborah. Tu citavi poco fa la Cina, mentre in Europa, quando va bene, il tasso di crescita della nostra economia raggiunge pochi punti percentuali. Il tasso di crescita invece in Cina è ancora all'8,1%, ma rallenta nel primo trimestre. Sentiamo il servizio. Sta gradualmente perdendo la velocità la Cina, quella che le aveva permesso di conoscere negli ultimi 20 anni la crescita economica più forte mai vista nella storia. Nel primo trimestre del 2012 il tasso di crescita del paese del dragone è stato dell'8,1%, il più basso dal 2009, secondo dati diffusi proprio dal governo di Pechino. Però si tratta del quinto trimestre consecutivo di rallentamento della crescita cinese. Il prodotto interno lordo del paese aveva già fatto segnare una crescita infrenata dell'8,9% nell'ultimo trimestre del 2011. Mentre, considerando tutto il 2011, la crescita è stata del 9,2% rispetto al 10,4% del 2010. Secondo gli analisti, l'aumento del consumo interno non è sufficientemente elevato per compensare il calo delle esportazioni dovuto al rallentamento della domanda sui principali mercati delle imprese cinesi, e cioè l'Europa e gli Stati Uniti. Inoltre, l'economia cinese sta subendo un doppio colpo, perché si aggiunge l'indebolimento del settore immobiliare, che finora è stato uno dei principali locomotori della crescita. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudiamo questa pagina economica, adesso torniamo alla politica. Iniziamo dalla situazione e anche dalle indagini per quanto riguarda la Lega Nord. L'ultimo caso riguarda Piacenza e tocca la Lega un po' più da lontano. Corruzione e concussione, le accuse per Davide Allegri, 37 anni, architetto, ex dirigente del Carroccio, dimessosi una prima volta dalla provincia di Piacenza nel settembre 2010, per non meglio precisati motivi personali. Una seconda volta, nel marzo del 2011, dal comune di Cortemaggiore, dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per corruzione e abuso d'ufficio. Dunque, a oggi Allegri non ha più cariche politiche e i fatti che lo riguardano hanno a che fare con autorizzazioni per impianti fotovoltaici. E però già le prime dimissioni di Allegri destarono sospetti, perché la Lega Emiliano-Romagnola era già nella bufera. Pochi mesi prima erano state commissariate le sedi di Parma, Reggio, Ferrara e Bologna, ufficialmente per evitare che i rispettivi segretari candidati alle regionali potessero avere un vantaggio diretto. Pochi mesi dopo, nel novembre 2010, anche la sede di Piacenza venne di fatto commissariata, con l'arrivo imposto da Milano del senatore Torri. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, Allegri è stato costretto dal partito alle dimissioni, e forse il suo è un caso isolato, ma che la Lega sia alle strette anche nella terra conquistata dell'Emilia Romagna è un fatto. Le procure di Bologna e Reggio hanno aperto fascicoli sulla gestione definita allegra del segretario Angelo Alessandri. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo le pulizie di primavera torniamo a fare politica. Roberto Maroni prova ad andare oltre la bufera che si è abbattuta sul Carroccio. Basta piangerci addosso, ora diamo vita alla fase 2 e agire agire secondo le nuove regole, poi fare cose concrete. La sfida che la Lega ha davanti è dimostrare nei fatti che noi rappresentiamo il Nord, ha detto stamattina l'ex ministro dell'Interno. Un invito che arriva all'indomani della riunione del Consiglio federale che ha espulso dal partito la vicepresidente del Senato Rosi Mauro e l'ex tesoriere Francesco Belsito, finiti al centro dell'inchiesta sui conti del Carroccio. Dalle indagini intanto emergono però nuovi particolari sulla posizione di Roberto Calderoli, che con Maroni e Manuela Dallago è stato nominato reggente del partito dopo il passo indietro di Umberto Bossi. In base a alcune intercettazioni telefoniche, anche l'ex ministro della semplificazione sembrerebbe aver beneficiato dei fondi distratti dalle casse del partito, e stando alle carte Calderoli si sarebbe anche attivato per evitare che la magistratura indagasse sulle operazioni finanziarie di Belsito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il caso Lusi, viaggi per sé e per i propri familiari da 1,5 milioni di euro in 5 anni, rimborsi per le indennità chilometriche legate all'uso di un'auto, di cui ad oggi non è ancora nota la proprietà, da 69.000 euro al mese, voli in aereo, taxi Roma-Londra da 15.000 euro. Sono le nuove spese che l'ex tesoriere della Margherita, il senatore Luigi Lusi, avrebbe effettuato nel quinquennio 2007-2011 con i soldi del partito. Peculato, abuso d'ufficio e falso sono invece le nuove accuse a carico di Nichi Vendola nell'inchiesta sulla transazione con l'ospedale ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti. Il governatore è indagato insieme ad altre 6 persone, tra loro gli ex assessori regionali alla sanità Tedesco e Fiore e il vescovo della diocesi di Altamura Gravina, Monsignor Mario Paciello. E chiudiamo questa pagina con Stefano Folli, che fa tutti i giorni il punto sul Sole 24 Ore. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Dunque, allora abbiamo parlato delle ultime novità che riguardano sia una parte politica che l'altra parte politica. Qualche cosa si sta muovendo e soprattutto in che direzione in Parlamento? Ma sul finanziamento dei partiti mi sembra che siamo ancora un po' in alto mare, perché la risposta che ha dato il Parlamento, a mio avviso, è troppo debole rispetto alle attese dell'opinione pubblica, troppo contraddittoria con le notizie che ci vengono dalle inchieste della magistratura nelle varie direzioni e che richiederebbero, io credo, dai partiti politici uno sforzo molto più intenso per dare un senso di voler davvero recuperare una credibilità perduta. E invece queste sono delle misure molto blande, non c'è una rinuncia a una fetta consistente del finanziamento pubblico, che sarebbe invece un gesto anche simbolico ma molto apprezzabile. Il Presidente della Repubblica sembra in silenzio in questi giorni, in queste settimane. Non so perché sia in silenzio, ma certamente il Presidente della Repubblica segue, io credo, con preoccupazione tutto quello che sta avvenendo nell'agenda politica, che naturalmente riflette le inquietudini di un paese che ha bisogno di certezze sia sul piano economico, sul piano della ripresa della crescita e sia sul piano, lo abbiamo detto, della moralità dei soggetti politici. Queste le notizie principali all'interno di GR24, sindacati in piazza a Roma per contestare la riforma previdenziale a sostegno degli esodati, la Camusso chiede le dimissioni del presidente dell'INPS. Crolla di quasi il 7% la produzione industriale a febbraio, il dato peggiore dal 2009, borse negative, spread in rialzo. Fallito il lancio di un missile in Nord Corea, violata una risoluzione dell'ONU, dice Ban Ki-moon. E per il calcio scommesse, oggi nuovi interrogatori. E a proposito del calcio scommesse, notizia di poco fa, si è conclusa dopo oltre 3 ore e mezza l'audizione in procura federale a Roma del laziale Stefano Mauri nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta sul calcio scommesse. Sono sereno e tranquillo, ma non posso parlare, ha detto Mauri al termine dell'interrogatorio. Oltre a Mauri, tra poco dovrebbe essere sentito anche il difensore della Cremonese, Carlo Gervasoni. E adesso, come avete sentito nei nostri titoli, parliamo della situazione in Corea del Nord. Il Consiglio di sicurezza, convocato in via straordinaria, oggi esaminerà la violazione grave delle risoluzioni dell'ONU dopo il lancio fallito di un razzo da parte della Corea del Nord. È rimasto in volo poco più di un minuto prima di andare a pezzi e cadere in mare. È finito così il lancio di un razzo nordcoreano che, secondo il governo comunista, doveva portare in orbita un satellite, mentre per la comunità internazionale era un test missilistico. Non è la prima volta che la Corea del Nord tenta questa impresa. Lo aveva già fatto senza riuscirci nel 98 e nel 2009. Questa volta però, a differenza delle altre, ha ammesso il fallimento. Un atto provocatorio, lo definisce la Casa Bianca, che minaccia la sicurezza della regione. E anche i paesi del G8 riuniti a Washington hanno condannato il lancio, annunciando misure appropriate nel corso del Consiglio di Sicurezza dell'ONU convocato in via straordinaria per il pomeriggio italiano. Il segretario generale Ban Ki-moon ha già definito il lancio deplorevole, sottolineando come violi direttamente una risoluzione delle Nazioni Unite. La Russia, la Cina e l'India hanno lanciato un appello a dar prova di massima responsabilità e moderazione. Mosca si è già detta contraria a nuove eventuali sanzioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ENI ha confermato l'attacco di una delle installazioni del gruppo petrolifero in Nigeria da parte dei guerriglieri del Mende. Si tratta di un pozzo e una condotta per il petrolio. Il Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger ha dichiarato che seguiranno altri attacchi. 3 morti e 13 feriti nell'incidente ferroviario avvenuto nel land tedesco dell'Assia intorno all'una di notte. Un treno regionale con circa 35 passeggeri si è scontrato con uno scavatore che si trovava sui binari ed è deragliato. A perdere la vita sono stati il macchinista e 2 dipendenti della ditta di costruzioni che stavano manovrando lo scavatore. È stata dissequestrata dopo 2 anni la chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Nel sottotetto, il 17 marzo 2010, fu rinvenuto il cadavere di Elisa Claps, la studentessa potentina uccisa il 12 settembre 1993. Adesso cambiamo argomento, governo e Parlamento al lavoro per cercare un accordo su nuove norme per combattere la corruzione. Nascono 2 nuovi reati, corruzione privata e traffico di influenze, ma non c'è la riforma del falso in bilancio come chiedevano Di Pietro e magistrati esperti di delitti economici da Davigo a Greco. Questi i punti più discussi del testo Severino, assieme a quello della concussione, dal quale la Severino ha scorporato l'induzione facendolo diventare nuovo reato. Dunque si continua a punire il pubblico ufficiale che abusa della sua qualità e dei suoi poteri con pene rafforzate da 4 a 6 anni e si confermano i 12 anni di massima. Per il nuovo reato, quello dell'induzione, si pensa a una pena minore dai 3 agli 8 anni. Sarà punito fino a 3 anni anche chi completa l'operazione e materialmente dà o promette denaro o altro. Assume una veste nuova anche la corruzione tra privati. Rischiano il carcere da 1 a 3 anni, prima c'era un generico fino a 3 anni, amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci che in cambio di soldi o della promessa di utilità compiono o omettono atti violando gli obblighi dei loro uffici e della fedeltà che ciò comporta. Punito anche fino a 1 anno e 6 mesi chi è sotto posto alla direzione o alla vigilanza e incorre negli stessi comportamenti. Le pene saranno raddoppiate se le società sono quotate in borsa in Italia o all'estero. Sulle intercettazioni il governo propone di tornare alle norme attualmente vigenti, soprattutto per la competenza ad autorizzare gli ascolti che dovrebbe tornare al GIP. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ufficialmente era cieca totale, dal 1979 ha percepito un'indennità di accompagnamento e pensione di invalidità civile intascando oltre 110.000 euro. La donna, che oggi ha 71 anni, ci vede invece benissimo ed è stata scoperta e denunciata dalla Guardia di Finanza a Tuscania, in provincia di Viterbo. Ed ora l'ultima puntata del nostro appuntamento quotidiano con l'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. 37 lavoratori in nero, non in una società qualunque, ma in un'azienda controllata al 100% da Poste Italiane. La storia è questa: una visita degli ispettori del lavoro ha verificato la presenza di lavoratori in nero in cooperative e società che lavorano per la SDA Express, che effettua consegne per conto di Poste Italiane. Nel mirino non i dipendenti diretti della SDA, ma di tutte quelle società esterne alle quali la società appalta la consegna di pacchi e pacchetti, insomma fisicamente chi fa il lavoro per cui la SDA Express esiste. Gli ispettori hanno trovato 37 persone senza lo straccio di un contratto, altre che ricevevano 2/3 della retribuzione sotto voci come trasferta e diaria, voci non tassabili. Così in un sol colpo si evadevano contributi previdenziali e IRPEF. Insomma, in un'azienda controllata da Poste Italiane si favoriva direttamente o indirettamente